chiederei prima di tutto al professore del giudice come fisico, e anche perché molti di noi studiano materie umanistiche per cui magari non hanno tanto una formazione scientifica, partirei con una domanda molto semplice. Cosa sono in termini di potenza 5 chilotoni? Che sono quelli di tonnellate di tritolo. Ton vuol dire tonnellata, chilo vuol dire 1000, e quindi chilotone, cioè, perché per paragonare la potenza di un ordigno nucleare lo si paragona alla potenza di un corrispondente bomba azionata da un esplosivo normale, il più diffuso è il tritolo. Allora si fa la corrispondenza col tritolo. Un chilotone è un'esplosione di 1000 tonnellate di tritolo. Ecco, tanto per darvi un'idea, il bombardamento aereo di Monte Cassino, per esempio, che è stato uno dei più intensi della Seconda Guerra Mondiale, implicò l'uso di 526 tonnellate di tritolo, cioè mezzo chilotone. Quindi 5 chilotoni significa una potenza esplosiva 10 volte superiore a quella adottata nel bombardamento di Monte Cassino. I più grossi bombardamenti aerei della Seconda Guerra Mondiale hanno implicato l'impiego di qualche migliaio di tonnellate di tritolo, quindi 1, 2, 3 chilotoni. La bomba atomica di Hiroshima è stata equivalente all'impiego di 16.000 tonnellate di tritolo, quindi 16 chilotoni. E quella di Nagasaki 22, l'ordigno adoperato, cioè di cui si sospetta l'impiego in Iraq nel 1991, è 5 chilotoni, quindi appartiene ancora alla categoria degli ordigni nucleari convenzionali, diciamo così, tipo Hiroshima, in cui la potenza viene diminuita rendendolo lo strumento un po' più inefficiente.